Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera facciamo un giro a Venezia, un giro turistico, ma anche un giro nell'economia della città e dell'economia italiana, perché il turismo è una realtà fondamentale dell'economia italiana. Un turismo che quest'anno è andato abbastanza bene e anche Venezia è andata abbastanza bene a livello di numeri. Poi il problema della qualità è un altro. Ed è il problema del turismo e del problema di Venezia. Ne parliamo con Angela Vettese. Buonasera, Vettese. Buonasera. Angela Vettese dirige il corso magistrale di arti visive presso l'Università IUR di Venezia, collabora con il Sole 24 Ore, è stata assessore al turismo proprio del Comune di Venezia e dal 2016 dirige Arte Fiera a Bologna. E ha dedicato un libro proprio a Venezia, si intitola Venezia vive, dal presente al futuro e viceversa, edito dal Mulino. È un libro che è un po' una guida turistica, è un po' un racconto, è un po' un'esperienza, è tante cose insieme. Ecco, Angela Vettese, com'è nato questo libro? Beh, è nato come riassunto in realtà della mia esperienza di assessore, perché è stata breve ma intensa e certamente non poteva uscirne nulla di scientificamente articolato, quindi il libro si propone come quasi una guida sentimentale, però poi verso la fine si cominciano a fare un po' di conticini. Ecco, una guida sentimentale, una guida per conoscere una Venezia al di là dei luoghi comuni, al di là di Piazza San Marco, potremmo dire, e quindi una guida per riscoprire anche Venezia, per riscoprire le potenzialità di Venezia. Com'è adesso, diciamo, facciamo un po' un quadro della situazione di Venezia e di Venezia come elemento importante del turismo in Italia, Angela Vettese? Da un lato vorrei sottolineare come Venezia si sia sempre sovrapposta a se stessa, quindi una delle caratteristiche dell'architettura di Venezia è quella di avere preso tutti gli stili in pieno proprio, quindi dal Medioevo al Rinascimento, al Barocco e anche l'architettura contemporanea. Quindi ci sono stati negli ultimi anni molti interventi di architettura contemporanea, alcuni di questi servono anche proprio come collettori del turismo. Sto parlando di tanti restauri dell'Arsenale Nord, che è immenso, sto parlando del Fonte Godet Tedeschi, restaurato da Rem Koolhaas, che è questo grandissimo centro commerciale, perché questo è a Rialto, che è nel palazzo che fu delle Poste, e sto parlando del Ponte di Calatrava, tanto certo, vituperato, eccetera, perché si scivola, obiettivamente si scivola, però ha cambiato la geografia della città perché ha reso gli spostamenti molto più facili, e tante altre, non so, Palazzo Grassi e Punta della Dogana restaurati da Tadao Ando, e tanti altri interventi che sono stati in realtà una manna dal cielo, perché spesso sono stati pagati da altri, da appassionati stranieri di Venezia, sì, sicuramente. Sì, per esempio lo stesso Ponte di Rialto, questa icona non bellissima ma ormai nel cuore di tutti, è stato recentemente restaurato con appunto soldi privati sostanzialmente. Ecco, questo dimostra che Venezia vive, in fondo dimostra che il titolo del libro è un titolo che dà un'idea di una realtà, di una città che non è una città museo, non è una città museo in senso tradizionale, non è una città ferma, ma è una città che si muove. È una città che si muove e ogni tentativo di tenerla ferma è destinato a fallire, perché in definitiva qui bisogna sistemare tutto ogni pochi anni, proprio c'è il sale che lo chiede, certo, c'è la famosa risalita salina che rovina tutto, e questa è una gran fortuna perché costringe appunto a tenere la città costantemente in uno stato di manutenzione. A volte questa manutenzione diventa anche inserimento di una buona architettura contemporanea. Quanto i turisti se ne rendano conto non lo so, però alla fine fanno le code a Punta della Dogana per andare a vedere le grandi mostre organizzate dalla Fondazione Pinault, quindi anche qui un investitore assolutamente francese, straniero, e in ogni caso le cose più belle anche in termini diciamo di accoglienza, dai ristoranti agli alberghi, si stanno rinnovando anche come tipologia di offerta, cioè in fondo il vecchio bacaro è sempre la cosa più calda e più accogliente, ma chi non si accontenta più del vecchio bacaro o chi non lo trova può andare a mangiare da grandi chef, e questa è una cosa che 10 anni fa non c'era. Ecco, quindi è una città in movimento in questa prospettiva, in cui però c'è anche un problema di un turismo di massa. Si è parlato di numero chiuso, si è parlato di dirottare le grandi navi che portano i turisti verso altri lidi, si è parlato di fermare un attimo anche questa avanzata di un turismo che viene chiamato così mordi e fuggi. Ecco, ci sono delle prospettive in questo senso ed è giusto porsi questo problema? È giustissimo, perché il turismo e il turista costano. Cioè, quello di cui non ci si rende conto è che il problema del turismo di massa non è che riempie la città. Non è questo il punto. Il punto è che poi i cittadini, che a Venezia sono pochissimi, si trovano a pagare i rifiuti e comunque l'usura della città. E se facciamo un conto del dare avere, il turista che resta qui poche ore fondamentalmente lascia in città un conto da pagare ed è molto superiore a ciò che paga lui, cioè alle due pizze che si compra, certo, in pizzeria. E questa è una cosa che ormai chi si occupa di città d'arte, e sto parlando dell'UNESCO fondamentalmente e dei tanti studi che si stanno facendo sulle città d'arte in Europa, non solo in Italia, sanno benissimo. Cioè si sa che il turista costa, a meno che non gli si offrano delle opportunità di spesa che sono appunto legate alla permanenza, hotel, ristoranti e anche i famigerati eventi. Perché dico famigerati? Perché Venezia ha una cosa eccellente, l'unica eccellenza nell'ambito della cultura contemporanea per quanto riguarda l'Italia, cioè la Biennale. Biennale arte, Biennale cinema, Biennale architettura, Biennale intesa in senso di archivio, cioè diciamo quella è top, che ci si perda, ci si guadagni, bisogna tenercela perché è quello che ci dà un fiore all'occhiello. Ma molti altri eventi sono organizzati in maniera un po' inutilmente nazional popolare, cioè in modo tale da richiamare tanta gente, ma a Venezia non serve tanta gente, a Venezia servirebbero degli eventi tutti di altissima qualità per richiamare in realtà meno gente con un più alto, scusatemi questo atteggiamento da signora della spesa, con una possibilità di spendere di più. Ecco, in prospettiva tuttavia il turista che arriva a Venezia, se poi si innamora di Venezia, magari la prima volta arriva per qualche ora, la seconda volta può arrivare anche per qualche giorno, quindi bisogna anche far amare Venezia. Ecco, in questa prospettiva c'è nel libro, soprattutto nella parte conclusiva, un po' una logica provocatoria, dire innestare su Venezia le nuove tecnologie, fare di Venezia quasi un laboratorio di nuove tecnologie. Ecco, cosa si intende per questo, Angela Vettese? Ma si intende una cosa che è già stata avviata o si è cercato di avviare con l'amministrazione Cacciari, e cioè un grande utilizzo della banda larga, una diffusa connettività wifi, e insomma la possibilità di sopperire attraverso la tecnologia i trasporti immateriali, ciò che a Venezia è molto difficile, cioè i trasporti materiali. Certo. Oggi lavorare a Venezia è possibile, mentre negli anni 70 e 80 lo era molto meno. Perché? Perché appunto non c'è bisogno di usare i motorini per trasportare una fotografia, oggi è possibile fare tutto via email, però ci sono dei limiti, e i limiti sono appunto che la connettività sia buona. In generale anche creare una visita, progettare una visita per un turista o per un gruppo di turisti più facilmente è qualcosa che si può fare completamente online, ma certamente va messa a disposizione una fruibilità, una serie di siti, di link che rendano tutto questo assolutamente facile, non soltanto possibile, perché possibile lo è già, ma deve essere facile e intuitivo, proprio a prova di straniero che non capisce bene l'italiano, non capisce bene le nostre logiche. Un altro elemento importante che riguarda la tecnologia sono proprio questi centri di ricerca scientifica, uno tra tutti è stato il pioniere, la Tetis, che ha sede all'Arsenale Nord, e tutti quei padiglioni immensi dell'Arsenale, ricordiamoci che l'Arsenale è stato per secoli e secoli l'area industriale più grande d'Europa, ecco, tutte quelle grandi spazialità che ci sono all'Arsenale, che ora sono gestite dal comune, possono diventare luoghi di sviluppo tecnologico per mille motivi, incluso per esempio il restauro di opere d'arte, che è una cosa altamente tecnologizzata, non è soltanto togliere un po' di polvere con un pennello a un quadro. Ecco, per concludere, Angela Vettese, guardando in avanti c'è sicuramente una prospettiva di valorizzazione di Venezia nel suo complesso, al di là appunto dei luoghi tradizionali. Per questo ci vuole anche una politica. Forse quello che è mancata finora è stata una politica coordinata di promozione di un vero turismo a Venezia. Tanti organismi, il comune, la provincia, la regione, lo Stato, le leggi speciali e così via, forse sono un po' sovrapposti e pestati i piedi l'uno con l'altro. Una visione unitaria sarebbe forse a questo punto necessaria, Angela Vettese. Beh, assolutamente sì. Teniamo conto che in Italia e anche, devo dire, in Europa non esiste un libro sulla legislazione che riguarda il turismo. La bibliografia è pochissima, nessuno è esperto di turismo in Italia e questo è incredibile, essendo noi un paese che si basa su questo. Certo. Ma inoltre è vero che ci vuole una cabina di regia, un coordinamento forte, e invece quello che ha fatto il Comune di Venezia, ma cercando di far bene, è stato decentrare rispetto alla politica, quindi creare delle società partecipate, che siano la Biennale piuttosto che Vela, che gestisce la mobilità, piuttosto che altri ambiti che riguardano appunto gli eventi. E decentrare significa però togliere controllo, oltre che alla politica, anche a un coordinamento. Allora, il fatto che la mano destra non sappia quello che fa la sinistra significa che spesso le date si sovrappongono, significa che per esempio il porto accetta le grandi navi, cosa che non è da demonizzare come si fa, molto spesso ci si nasconde dietro questo dito che sono le grandi navi. Non sono belle, ma non sono il problema maggiore. Certo. Il problema maggiore è proprio fare un programma per lo sviluppo di Venezia, che poi è un simbolo di tutto quello che accade nelle città d'arte italiane. Credo che potrebbe essere un grande esempio, una città guida come lo è sempre stato nella storia. Grazie Angela Vettese anche per averci introdotto a questa problematica, una problematica appunto di conoscenza delle città d'arte, non solo a livello superficiale, ma perché hanno grandissime potenzialità. E in questo libro Venezia Vive c'è anche appunto un viaggio un po' sentimentale, ma molto di emozione, molto anche alla scoperta di una realtà che conosciamo forse troppo superficialmente, che possiamo comunque approfondire andandoci con i tempi dovuti. Quindi grazie ad Angela Vettese, ricordo il libro Venezia Vive, dal presente al futuro e viceversa, edito dal Mulino, sono 220 pagine per 15 euro. Grazie anche a quanti ci hanno ascoltato, ad Andrea Roccabella in regia, Luca Cremonese in redazione, l'appuntamento con Economia in Pagina per domenica prossima.